Organizzazione post trasloco, pulizie di primavera, cambio armadi. Non importa. L'occasione giusta per fare ordine è adesso. Fino al 3 marzo, IKEA ti aspetta con sconti fino al 50% su oltre 50 prodotti per organizzare la tua casa. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. In questa puntata vi presentiamo una realtà veramente di grande valore. Progetto Nash, ovvero i famosissimi cani che cercano cani. Il progetto Nash è una realtà veramente valida che ci insegna una cosa fondamentale. Il volontariato fatto bene esiste. Il volontariato fatto bene crea informazione corretta e lineare e non lascia spazio alle perdite di tempo, perché il tempo è una risorsa importante e i volontari e i binomi che mettono a disposizione il loro tempo sono il valore aggiunto di questa associazione. Il volontariato fatto bene si confronta continuamente, mettendo la continua formazione al primo posto, dando un valore aggiunto al gruppo e al confronto costruttivo. E allora andiamo a sentire l'intervista. Bentornati amici di Paucracy. Come vi avevo accennato, oggi siamo qui con la vicepresidente e responsabile Lazio e del gruppo Roma di Progetto Nash, Anna Rita Peperoni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Anna Rita, siamo molto contenti di averti qua con noi e io direi di andare subito al sodo. Tu sei qui per parlarci di un progetto molto importante e molto valido, ovvero Progetto Nash. Vuoi raccontarci un po' di come è nato questo progetto? Assolutamente sì. Allora, intanto grazie mille per questa opportunità molto bella. E allora sì, Progetto Nash è una organizzazione di volontariato che diciamo muove i primi passi qualche anno fa, una decina di anni fa, dopo la scomparsa da parte di un cane di una collega di Genova e, che purtroppo, nonostante gli sforzi da parte di questa collega e di tutte le persone coinvolte, non è mai stato ritrovato. Da qui nasce l'idea, da parte appunto di Carlotta, che è appunto la proprietaria di Nash, di coinvolgere la presidente dell'ODV, Susanna Ostoni, in questo progetto, che è appunto formare dei binomi, quindi delle coppie umano-cane, che fossero specializzate in ricerca di cani dispersi. Diciamo, dopo un primo periodo di studi e di prove, La presidente Susanna Ostoni, come me, viene dal mondo della protezione civile e quindi ha una specializzazione per quanto riguarda la ricerca e soprattutto la parte, diciamo, di lavoro olfattivo con il cane. Si è arrivati appunto alla formazione di alcuni binomi e da qui poi è partita l'avventura di Progetto Nash, come la conosciamo oggi, che è quindi un'associazione che si occupa di seguire e di dare supporto alle persone e ai volontari che sono coinvolti nella ricerca del proprio cane o di cani, di amici, di persone che si conoscono, per dare un supporto professionale che fosse, diciamo, democratico, ovvero non legato alle capacità economiche della persona in questione, ma appunto che fosse invece gratuito, totalmente gratuito e però con un livello di professionalità molto alto. Ok. Chi sono i cani molecolari? Ci vuoi spiegare intanto questo? Allora sì, i cani molecolari sono conosciuti di solito come quei cani che cercano persone oppure fanno ricerca. In realtà tutti i cani sono molecolari, che è uno dei motivi per cui in Progetto Nash non abbiamo delle razze specifiche, ma lavoriamo e prepariamo cani di qualsiasi razza, di qualsiasi taglia, perché il cane in generale appartiene a una specie che è definita macrosmatica, ovvero appunto in cui l'olfatto è l'organo di senso per elezione. Quindi diciamo che in quello che è l'immaginario collettivo, il cane molecolare è quel cane che è specializzato nella ricerca. Diciamo che tutti i cani sono molecolari, nel nostro caso infatti noi ci chiamiamo cani che cercano cani, ci piace più questo appellativo. Ok, ma veniamo, diciamo così, all'aspetto pratico, perché è molto importante prima di tutto intervenire tempestivamente, e questo ce lo puoi confermare, sì. Giusto? Sì, assolutamente, prima riusciamo ad intervenire e più efficace è l'intervento da parte dei cani. Molto spesso magari abbiamo sentito, vi abbiamo sentito nominare, diciamo così, come effetto magico, quindi Progetto Nash porta a casa il mio cane. È effettivamente così? Poi ovviamente si verifica, insomma, il ritrovamento del cane, ma come avviene la ricerca e il supporto? Allora, sì, ci piacerebbe avere un'efficacia così, diciamo, al 100%. Ovviamente abbiamo ritrovato cani fisicamente durante le ricerche, però erano case abbastanza particolari, quindi il cane anziano, il cucciolo, il cane terrorizzato che era nascosto nel fogliame, oppure magari un intervento particolarmente, appunto, che siamo riusciti a fare rapidamente, quindi a ridosso di un avvistamento, e quindi siamo riusciti ad intervenire e a trovare il cane fisicamente. Il più delle volte invece andiamo a dare supporto con i cani restringendo quella che è l'area di ricerca, cioè i nostri cani sono specializzati nel segnalarci l'odore del cane perso e quindi darci un'indicazione di traccia, di direzione e di zona, e quindi attraverso il sopralluogo dei nostri cani riusciamo a dare delle direttive poi su come proseguire le ricerche e su dove concentrare le ricerche. Poi ovviamente se il cane è in buona salute, essendo un essere vivente, è in grado di muoversi, quindi ovviamente dobbiamo valutare anche gli spostamenti, e per questo poi diamo un supporto che non è soltanto quello cinofilo, quindi attraverso l'ausilio del cane, ma diamo un supporto di tipo completo, dando proprio dei consigli anche su quella che è la comunicazione, sia tramite i social che attraverso i volantini, come cercare di agevolare il rientro in autonomia del cane a casa, e quindi cerchiamo di dare supporto anche sotto questo punto di vista, oltre ovviamente ad un supporto psicologico, perché chi perde il cane spesso e volentieri è in totale stato confusionale e non sa neanche come muoversi, per cui al di là della disperazione e dell'agitazione del momento e magari viene cercato il cane fisicamente e anche facendo tutta una serie di cose che poi in realtà sono anche sbagliate per certe situazioni. Quindi insomma cerchiamo di dare supporto a 360 gradi. Perfetto. Il servizio è a pagamento, il servizio di ricerca e di supporto? Allora, noi siamo un'associazione, quindi un'organizzazione di volontariato, non abbiamo un listino prezzi, ovviamente è totalmente gratuito. Chi aiutiamo di solito ricambia il nostro operato attraverso una donazione che ovviamente è spontanea e libera, e ovviamente essendo un'organizzazione viviamo di donazioni. Queste donazioni ci permettono appunto di proseguire e di continuare la formazione, di dare dei rimborsi sui costi vivi ai nostri volontari, per cui la benzina, l'autostrada, gli spostamenti, e ovviamente per acquistare il materiale che poi serve e che diamo spesso il più delle volte in prestito ai volontari e ai proprietari che stanno cercando i cani, quindi fototrappole, gabbie trappola e strumenti di questo tipo. Perfetto. Senti, Annarita, quali sono le tempistiche entro cui si può intervenire? Cioè, qual è il momento giusto, se c'è un momento giusto per intervenire? Allora, nel momento in cui veniamo contattati dai proprietari, il contatto avviene tramite i referenti di gruppo. Il referente di gruppo è il responsabile del gruppo di una determinata zona. Il referente raccoglie una serie di informazioni sia sulle dinamiche di smarrimento, ma anche sul cane, quindi sulle caratteristiche della personalità del cane, sulla situazione in cui il cane si è smarrito, e quindi in base a quello cerchiamo di capire come e se intervenire con i cani, e ovviamente cerchiamo di farlo il prima possibile. È ovvio che se ci veniamo contattati a una settimana, un mese, a volte anche ci è capitato di essere contattati a un anno di distanza, ovviamente il nostro intervento non è pensabile con l'ausilio dei cani, parlo sempre. Mentre prima veniamo chiamati, quindi parliamo delle prime 48-72 ore, in questo modo l'intervento è molto più efficace, quindi riusciamo a dare effettivamente un supporto molto più completo. È fondamentale anche che chi ci contatta sia molto chiaro e sia molto preciso nelle indicazioni che ci dà, quindi sulle caratteristiche appunto del cane, su quelli che sono stati gli avvistamenti e le dinamiche di smarrimento, perché poi in base a quello decidiamo appunto che tipo di cane mandare, che tipo di intervento fare e come strutturare proprio il nostro operato. Perfetto. Senti, molto importante è l'aspetto della formazione dei binomi, quindi dei volontari che scelgono di, diciamo così, di approcciarsi a Progetto NECH. Come funziona questa formazione? Allora, la formazione è il punto, diciamo, di forza di Progetto NECH, nel senso che chi vuole entrare dentro la nostra squadra deve seguire un percorso formativo che è continuativo e costante. La durata del percorso varia, ma di solito non è meno di 6 mesi, un anno, e permette al binomio di crescere dal punto di vista relazionale e anche appunto di acquisire una professionalità che gli permette poi di intervenire in autonomia su uno smarrimento. dopo, diciamo, quando il referente e il formatore del gruppo reputa che quel binomio, quei binomi sono pronti, quindi ci sono dei moduli formativi, una formazione a distanza che riguarda non soltanto l'aspetto cinofilo ma anche la cartografia, l'uso di strumenti per registrare il percorso e per dare un quadro molto più completo del sopralluogo, dell'intervento fatto, psicologia d'emergenza, quindi essere in grado anche di comunicare in maniera efficace, di dare un supporto psicologico ai proprietari. Diciamo che quando il binomio viene reputato pronto, sostiene un esame che viene ripetuto annualmente o comunque periodicamente, in modo tale che il binomio venga testato continuamente rispetto alla sua formazione e alla sua preparazione. Ottimo, perfetto. E come possiamo, diciamo così, come può eventualmente una persona o comunque un binomio, diciamo così, un compagno di un cane che magari è interessato ad entrare in progetto NESH, cosa può fare per mettersi prima di tutto in contatto con voi e soprattutto come viene scelto questo percorso, questo binomio? Le persone che hanno voglia di darci una mano, di entrare in progetto NESH, possono contattarci sia tramite la pagina Facebook che attraverso il nostro sito e anche attraverso l'indirizzo email che è progettonesh@gmail.com. Attraverso questi canali hanno un primo contatto con noi. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di radicarci, di essere radicati nel territorio ed essere una rete estremamente capillare, quindi poi la persona viene messa in contatto con il referente più vicino o, se non esiste un gruppo nelle vicinanze, si valuta la possibilità, se si ha voglia, di creare un gruppo nella zona appunto in cui si trova quel binomio, e quindi poi parte la formazione di un gruppo. Abbiamo bisogno ovviamente di binomi, quindi di persone che hanno un cane, che hanno voglia e tempo di mettersi in gioco e di lavorare con noi, ma anche di persone che ci danno supporto logistico, di ad esempio volontari che hanno magari un drone, hanno l'abilitazione per volare e che possono darci una mano anche con quest'altro strumento molto importante nelle ricerche. Per quanto riguarda la scelta, la valutazione di un binomio, ovviamente la condizio sine qua non per entrare in progetto NESH è saper fare gruppo. Per noi è fondamentale questo aspetto, cioè si valuta ovviamente anche il cane, nel senso che non abbiamo, come dicevo prima, non scegliamo razze particolari, lavoriamo con qualsiasi tipologia di cane purché abbia voglia di cercare e sia in buono stato di salute. Per quanto riguarda la componente umana, del binomio, invece ovviamente deve essere una persona che ha appunto voglia di mettersi in discussione, di entrare in un gruppo, di far parte di questo gruppo in maniera attiva, e quindi poi dare la propria disponibilità sia nella parte di formazione che nella parte degli interventi. Perfetto. Dove è presente attualmente Progetto NESH? In quali regioni? Allora, Progetto NESH attualmente è presente in Piemonte, in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana e nel Lazio. Ovviamente non copriamo tutte le regioni che ho indicato, ma alcune province, ad esempio Bergamo, Torino, Imola, Firenze e, nel caso del Lazio, Roma. Poi ci sono alcuni gruppi che sono in formazione e stiamo procedendo e speriamo, di spostarci il più possibile anche al sud. Ok, perfetto. Poi magari sul sito potete trovare gli aggiornamenti dei vari eventi conoscitivi, insomma, che mi sembra ci siano nei prossimi mesi, no? Nelle prossime settimane, se non sbaglio. Giusto? Sì, questo weekend appena trascorso c'è stato il primo modulo a Imola, domenica prossima saremo a Pescasteroli e insomma, se qualcuno ha voglia di tenersi aggiornati può seguire sia la pagina Facebook che la pagina Instagram di Progetto Nash, che è anche il nostro sito, che è progettonash.org. Ok, perfetto. Allora, Anna Rita, io prima di lasciarti andare volevo fare un breve cenno diciamo così sul se fosse possibile sulle tipologie del cane che in qualche modo si smarrisce. Qual è l'importanza della divulgazione in merito a un'adozione consapevole, quindi quanto sarebbe importante, quanto magari noi speriamo di poter portare avanti questo lavoro con Pocrasi, ma so che voi sposate in pieno questa teoria e sperate che diventi pratica un po' come noi, insomma. Sì, noi sono, per quanto riguarda, io parlo del gruppo di Roma, ma confrontandoci anche con gli altri gruppi delle altre regioni abbiamo notato che c'è sempre più un incremento di cani persi nelle prime fasi dell'adozione. Quindi sono molto frequenti ultimamente cani che vengono persi alla consegna dalle staffette nei primi giorni, nelle prime ore, nelle prime settimane dall'adozione. Quindi quello che stiamo anche cercando di fare, che è anche appunto l'obiettivo della vostra trasmissione, è proprio quello di fare un lavoro, di dare anche un contributo divulgativo, cercando di andare a fare un lavoro di prevenzione degli smarrimenti. Quindi ovviamente quello su cui stiamo cercando di porre molto l'accento è l'importanza di creare un iter adottivo che sia rispettoso del soggetto cane che viene adottato e che vengano sempre più rese fruibili e soprattutto comuni a tutti un certo iter di adozione, per cui un iter conoscitivo, che ci siano sempre meno queste spedizioni di cani, la scelta dei cani sui social. I social sono uno strumento molto importante per le adozioni, anche per la ricerca di cani dispersi, però si è andato molto su una sorta di scelta dal catalogo, e questo purtroppo spesso e volentieri crea proprio i presupposti poi per tutta una serie di problematiche che poi sono legate appunto alla fuga di questi cani, e sono cani che sono molto complicati sia da cercare che poi da recuperare. Certo, è stata troppo è perfetta. Ok, no, se sono andata troppo giù pesante dimmelo. Che no, assolutamente, anzi, okay. Per me va benissimo, quindi okay. Penso che insomma sarà un po' una lunga strada, però va bene lo stesso, va bene così, perfetto. Bene Anna Rita, io non ti rubo altro tempo e ti ringrazio perché veramente è stato molto prezioso questo intervento. Sono molto felice, insomma, di averti avuto qua e vi auguro una lunga strada e veramente ancora tantissimi complimenti e poi speriamo di rincontrarci lungo la strada di Pocrasi, magari con altri argomenti. Assolutamente, grazie mille dell'occasione e spero appunto di rivederci presto, di risentirci presto. Perfetto, ti ringrazio. Buona serata. Thank you. amici, personalmente sono molto felice di aver potuto raccontare questa realtà nella nostra trasmissione e ringrazio il gruppo di Roma di Progetto Nash per la collaborazione preziosa, spero lunga e proficua, a cui devo la grande accoglienza di Ipocrasi e la grande infusione di coraggio e autostima che mi ha spinto a credere in me stessa e nei valori che vorrei portare all'interno della trasmissione. Per questo episodio è tutto, ma prima di lasciarvi vi ricordo che Ipocrasi fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la Radio Geek. Se volete scoprire quello che facciamo basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/Ipocrasi e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a ipocrasipodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Ciao e al prossimo episodio. E che la rivoluzione abbia inizio!